È il ritratto di una coppia imperiale dell'antichità, ricavato da un blocco di agata. Un quarzo, dunque, grande come una mano, che la maestria di un artista alessandrino, 3 secoli prima di Cristo, ha trasformato in gioiello ammirato da intellettuali e pittori, desiderato da nobili, papi ed imperatori. 500 anni fa fu di Isabella d'Este, raffinata mecenate, moglie di Francesco. Erano anni in cui un pontefice aveva imposto il gusto del collezionismo, facendone uno status con cui i grandi signori dell'epoca erano costretti a confrontarsi. Nel 1603 Vincenzo I Gonzaga è costretto da un serrato corteggiamento imperiale a cederlo a Rodolfo II. Arriva a Praga. Durante la guerra dei Trent'anni, la capitale boema è assediata dagli svedesi. Le truppe riescono a fermarli sul fiume, ma il castello è saccheggiato e il gioiello sparisce. Riappare a Stoccolma nella collezione della regina Cristina, una figura anticonformista che rinuncia al trono, si converte e si ritira a Roma con il gioiello. Regalato al Papa, resterà in Vaticano fino al 1798. Questa volta il saccheggio è francese e il cameo Gonzaga viene donato da Napoleone alla sua Giuseppina, che a sua volta, nel 1814, sarà costretta a regalarlo allo zar Alessandro I. Un gioiello da vedere dunque e da leggere, intanto su radio24.it.